e so anch'io che scherzo. Ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie dal sottosuolo di Fyodor Dostoevskij, traduzione di Alfredo Polledro. Signori, sì, certo. Io scherzo. Sì. E so anch'io che scherzo, malamente. Ma non si può mica prendere tutto in scherzo. Forse scherzo a denti stretti. Signori, mi tormentano dei problemi. Dei problemi. Risolvetemeli. Voi, per esempio, un uomo lo volete disavvezzare dalle vecchie abitudini e volete correggere la sua volontà conformemente alle esigenze della scienza e del buon senso. Ma come fate a sapere che l'uomo non solo si può, ma si deve anche trasformarlo così? Da che cosa concludete che al volere umano, così indispensabilmente, occorra correggersi? Insomma, come fate a sapere che una siffatta correzione arrecherà effettivamente vantaggio all'uomo? E per dire proprio tutto, perché siete così sicuramente convinti che non andare contro gli autentici e normali vantaggi garantiti dagli argomenti forniti, dalla ragione, dall'aritmetica, sia effettivamente sempre vantaggioso per l'uomo e sia una legge per tutta l'umanità? Perché questa, per intanto, non è ancora che una vostra supposizione? Mettiamo che sia una legge della logica, ma forse non è per niente una legge dell'umanità. Forse voi pensate, signori, che io sia pazzo. E permettetemi che io mi spieghi. D'accordo, l'uomo è un animale per eccellenza costruttivo, condannato a tendere coscientemente verso la meta e ad esercitare l'arte dell'ingegneria, cioè a tracciarsi eternamente ed incessantemente una strada, sebbene diretta, dove che sia. Ma gli viene voglia, alle volte, di sgattaiolare di fianco, forse appunto perché è costretto ad aprire questa strada, e magari ancora perché, per quanto stupido sia in generale l'uomo d'azione immediato, tuttavia gli viene in mente qualche volta che la strada risulta quasi sempre diretta dove che sia, e che la cosa principale non è dove essa vada, ma che abbia una direzione, e che il ragazzo morigerato, trascurando l'arte dell'ingegneria, non si abbandoni ad un funesto ozio che, come è noto, è il padre di tutti i vizi. L'uomo ama costruire e tracciare delle strade, è indiscutibile. Ma perché mai egli ama fino alla passione anche la distruzione e il caos? Ditemelo un po'. Parlate. Ma su questo anch'io ho voglia di dire due parole a parte. Non può darsi che gli ami tanto la distruzione e il caos, perché è indiscutibile che a volte li ama molto. Così, in quanto lui stesso istintivamente teme di raggiungere la meta e di ultimare l'edificio in costruzione. Che ne sapete? Forse l'edificio lo ama solo da lontano e niente affatto da vicino. Forse ama unicamente costruirlo e non viverci dentro, riservandolo poi aux animaux domestiques, come formiche, montoni. Ecco le formiche. Le formiche hanno tutt'altro gusto. Esse hanno un solo meraviglioso edificio dello stesso genere, inalterabile, in eterno, il formicaio. Dal formicaio le rispettabili formiche hanno cominciato e col formicaio sicuramente finiranno, cosa che fa molto onore alla loro costanza e al loro carattere positivo. Ma l'uomo è un essere leggero e d'ingrato aspetto, e forse come il giocatore degli scacchi. Non ama che il processo attraverso il quale raggiunge il fine, e non il fine stesso. E chissà, garantirlo non si può. Forse anche tutto il fine a cui tende l'umanità sulla Terra è racchiuso unicamente in questo solo ininterrotto processo di raggiungimento, o per dirla altrimenti, nella vita stessa, e non propriamente nel fine, che si intende non deve essere se non il 2 per 2 è 4, cioè una formula. Ma del resto, il 2 per 2 è 4 non è più vita, signori, bensì è il principio della morte. Perlomeno l'uomo ha sempre avuto un certo timore di questo 2 per 2 4, e io lo temo anche ora. Mettiamo pure che l'uomo non fa che cercare questo 2 per 2 4, valica gli oceani, sacrifica la vita in questa ricerca, ma di scoprirlo, di trovarlo effettivamente, vi giuro che ne ha come paura. Infatti egli sente che non appena l'avrà trovato non ci sarà più nulla da cercare. I lavoratori, finito il lavoro, perlomeno ricevono il denaro, vanno alla bettola, poi finiscono al commissariato. Sono occupazioni che bastano per una settimana. Ma l'uomo dove va? Quantomeno ogni volta si nota in lui un che di impacciato nel momento in cui raggiunge così fatti fini. Il fatto di raggiungerli gli piace, ma averli raggiunti non proprio. E questo certo è straordinariamente ridicolo. Insomma, l'uomo è congegnato in un modo buffo. In tutto ciò, evidentemente, c'è un gioco di parole, ma il 2 per 2 è 4 è pur sempre una cosa arci insopportabile. Il 2 per 2 è 4, secondo la mia opinione, non è che sfacciataggine. Il 2 per 2 è 4 si dà delle arie, vi attraversa la strada con le mani sui fianchi e sputa. Sono d'accordo anch'io che il 2 per 2 è 4 è una cosa eccellente. Ma se proprio si ha da lodar tutto, anche il 2 per 2 5 a volte è una cosuccia graziosissima. E perché voi siete così fermamente, così solennemente sicuri che soltanto quello che è normale e positivo, in una parola, soltanto la prosperità sia vantaggiosa all'uomo? La ragione non si inganna nei vantaggi? Può darsi che l'uomo non ami la sola prosperità, può darsi che ami esattamente altrettanto la sofferenza. Può darsi che proprio la sofferenza gli sia esattamente altrettanto vantaggiosa quanto la prosperità. E l'uomo a volte ama immensamente la sofferenza, fino alla passione. Anche questo è un fatto. Qui poi non c'è nemmeno da consultare la storia. Domandate a voi stesso se siete un uomo e poco o tanto avete vissuto. Per quanto poi riguarda la mia opinione personale, amare soltanto la prosperità è perfino in certo modo sconveniente. è bene o male che sia, ma anche rompere a volte qualcosa è molto piacevole. Io del resto qui non sono propriamente partigiano per la sofferenza e nemmeno della prosperità. Sono partigiano del mio capriccio e che mi sia garantito quando occorra. La sofferenza, per esempio, nei vaudeville non è ammessa, lo so. In un palazzo di cristallo sarebbe perfino impensabile. La sofferenza è dubbio, è negazione. E che palazzo di cristallo sarebbe quello in cui si potesse dubitare? Eppure sono sicuro che l'uomo, all'autentica sofferenza, cioè alla distruzione e al caos, non rinuncerà mai. La sofferenza. Ma è l'unica causa della coscienza. Io, sebbene abbia dichiarato in principio che la coscienza, secondo me, è la suprema disgrazia per l'uomo, so però che l'uomo la ama e non la cambierebbe con nessuna soddisfazione. La coscienza, per esempio, è infinitamente più elevata del 2x2. Dopo il 2x2, si intende, non rimane più nulla, non solo da fare, ma nemmeno da conoscere. Tutto ciò che sarà possibile allora sarà questo: tappare i propri 5 sensi e immergersi nella contemplazione. Beh, invece con la coscienza, anche se il risultato viene ad essere lo stesso, cioè non ci sarà niente da fare, lo stesso. Perlomeno qualche volta ci si può fustigare, ed è pur sempre una cosa che ravviva, anche se è da retrogradi, tuttavia è meglio di niente. Voi credete nell'edificio di cristallo inalterabile in eterno, cioè tale che non gli si potrà né mostrare la lingua di nascosto e né fargli le fiche in tasca. Beh, ma è forse per questo appunto che ho paura di questo edificio, perché è di cristallo e inalterabile in eterno, e perché non gli si potrà nemmeno mostrare la lingua di nascosto, vedete? Se invece di un palazzo ci sarà un pollaio e verrà la pioggia, forse mi infilerò nel pollaio per non bagnarmi, ma tuttavia il pollaio non lo scambierò per un palazzo a dimostrargli la mia riconoscenza, perché mi ha preservato dalla pioggia. Voi ridete. Dite perfino che in questo caso un pollaio o un castello fa lo stesso. Sì, rispondo io. Sì, se si dovesse vivere solamente per non bagnarsi. Ma che fare? Se mi sono messo in testa che non si vive per questo solo, e che se si ha da vivere, è già meglio vivere in un castello. Questo è il mio volere. Questi sono i miei desideri. Me lo toglierete via di dosso solamente quando cambierete il mio desiderio. Beh, cambiatelo. Cambiatelo, su. Seducetemi con altro. Datemi un altro ideale, avanti. Ma per intanto io non prenderò un pollaio per un palazzo. Ammetto perfino che l'edificio di cristallo sia una fortuna, che non sia neppure ammissibile secondo le leggi naturali, e io l'abbia inventato solamente per mia propria stupidità, per certe antiquate irrazionali abitudini della nostra generazione. Ma che mi importa che non sia ammissibile? Non è lo stesso se esiste nei miei desideri, o per meglio dire esiste finché esistono i miei desideri? Forse ridete di nuovo? Ridete, accetterò tutte le derisioni, e tuttavia non dirò che sono sazio quando voglio mangiare. Tuttavia so che non mi acqueterò in un compromesso, in un incessante periodico zero, solo perché esso esiste secondo le leggi naturali, ed esiste effettivamente. Non accetterò, come coronamento dei miei desideri, un casamento con alloggi per inquilini poveri dal contratto per 1000 anni e in ogni caso col dentista Wagenheim sulla targa. Annullate i miei desideri. Cancellate i miei ideali. Mostratemi qualcosa di meglio. E io vi andrò dietro. Magari direte che non mette conto nemmeno di legarsi. Ma in tal caso io posso rispondervi allo stesso modo. Noi ragioniamo seriamente. E se non mi volete degnare della vostra attenzione, non vi farò certo degli inchini. Io ho il sottosuolo. E per intanto vivo e desidero ancora, e mi secchi la mano se porterò anche solo un mattone per fare un casamento come quello. Non badate al fatto che io stesso poco fa ho respinto l'edificio di cristallo, unicamente per il motivo che non si potrà canzonarlo, mostrandogli la lingua. Questo non l'ho detto affatto perché mi piaccia tanto tirar fuori la lingua. Forse mi sono arrabbiato unicamente perché un edificio a cui si possa non mostrare la lingua, finora fra tutti i vostri edifici non c'è caso di trovarlo. Al contrario, mi lascerei tagliare interamente la lingua per pura riconoscenza, purché le cose andassero in modo che anch'io non avessi mai più voglia di tirarla fuori. Che mi importa che non si possa far andare le cose così e che occorra accontentarsi di appartamenti? E perché io sono fatto con questi desideri? È mai possibile che io sia fatto soltanto per giungere alla conclusione che tutta la mia struttura è puro inganno? È possibile che tutto lo scopo stia in questo? No, no, non credo, non credo. E del resto, sapete, sono convinto che noi del sottosuolo bisogna tenerci a freno. Siamo magari capaci di starcene in silenzio nel sottosuolo per 40 anni, ma se una volta usciamo alla luce e ci apriamo un passaggio, allora si parla. Alla fin fine, signori, è meglio non far nulla. È meglio l'inerzia cosciente. E così. Evviva il sottosuolo! Sebbene abbia detto che invidio l'uomo normale fino a scoppiare dalla bile, ma alle condizioni in cui lo vedo, non voglio essere lui. Anche se però non cesserò di invidiarlo. No. Il sottosuolo in ogni caso è più vantaggioso. Là almeno si può. Ma del resto, anche qui dico il falso. Dico il falso perché so anch'io, come 2 per 2, che non è affatto il sottosuolo che è meglio, ma qualcos'altro, tutt'altra cosa, a cui anelo, ma che non troverò mai. Al diavolo il sottosuolo. Anzi, ecco ciò che sarebbe il meglio qui. Se io stesso credessi almeno a qualcosa di tutto quello che ho scritto ora, vi giuro, signori, che non credo a una sola, nemmeno a una sola parola di quello che ho scarabocchiato ora. Cioè, magari ci credo, ma nello stesso tempo non so perché sento e sospetto d'essere bugiardo, come un calzolaio. Allora perché avete scritto tutto questo? Mi dite voi. Ma io vi pianterei lì per una 40 anni senza nessuna occupazione e verrei da voi dopo 40 anni nel sottosuolo a informarmi del punto a cui sarete arrivati. Si può forse lasciare solo un uomo senza lavoro per 40 anni? E non è vergognoso? E non è umiliante? Forse mi direte voi, crollando sprezzantemente il capo. Voi anelate alla vita e risolvete voi stesso i problemi vitali con un imbroglio logico. E come sono importune, come sono insolenti le vostre uscite. Nello stesso tempo sembra che abbiate paura. Dite delle sciocchezze e ne siete contento. Dite delle insolenze e ne sentite continuamente paura e chiedete scusa. Assicurate di non temere nulla. E nello stesso tempo cercate di conquistarvi con le lusinghe il nostro buon giudizio. Assicurate che state digrignando i denti e nello stesso tempo fate dello spirito per divertirci. Sapete che le vostre arguzie non sono spiritose, ma evidentemente siete molto contento della loro dignità letteraria. Vi è forse effettivamente accaduto di soffrire, ma non rispettate affatto la vostra sofferenza. In voi c'è anche della verità, ma non avete pudore. Per la più meschina vanità mettete in mostra e a ludibrio sul mercato la vostra verità. Avete effettivamente qualcosa da dire. Ma per paura nascondete la vostra ultima parola, perché non avete la risolutezza di esprimerla, ma solo una pavida sfacciataggine. Vi vantate d'essere cosciente, ma non fate che titubare, perché sebbene in voi la mente lavori, il vostro cuore è ottenebrato dalla depravazione, e senza un cuore puro non ci può essere una piena e retta coscienza. E quanta importunità c'è in voi! Come vi fate avanti, quante smorfie fate! Menzogna, menzogna, menzogna! Si intende che tutte queste vostre parole le ho escogitate ora io stesso. Eh sì, io ho escogitato queste parole. Anche questo viene dal sottosuolo. Sì. Là, per 40 anni di fila, ho teso l'orecchio da una fessura a queste vostre parole. Le ho inventate io stesso. Infatti, non mi veniva affatto di inventare altro. Non fa meraviglia che la cosa sia stata imparata a memoria e abbia assunto forma letteraria. Ma possibile. Ma possibile che davvero siate tanto creduli da immaginare che io stampi tutto questo e poi ve lo dia ancora da leggere?